dedicata all'economia della regione locomotiva dell'Italia che è anche tra i quattro motori dell'Europa. La nuova iniziativa editoriale 24 ore Lombardia sarà rivolta alle imprese, al commercio, alla finanza, ai professionisti e alle pubbliche amministrazioni locali. L'area lombarda rappresenta un terzo del PIL nazionale, oltre 800.000 imprese vi lavorano. Il PIL lordo pro capite supera del 29% quello italiano. Il tema dell'inchiesta d'apertura del primo numero è il gap infrastrutturale esistente in Lombardia e la prevedibile evoluzione della mobilità. Ma 24 ore Lombardia si concentrerà anche su aree critiche, come auspica Diana Bracco, presidente di Assolombarda. Senza dubbio avrà come tema questo dell'integrazione. E il settimanale presentato ieri alla presenza delle istituzioni lombarde, come spiega Letizia Moratti, sindaco di Milano, dà voce anche a punti di forza dell'area lombarda. Confermando l'importanza del nostro territorio come motore dell'economia del paese. Anna Marino, GR24, Sole 24 Ore.